A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. La mia testa è stato il prezzo del ricatto mafioso espresso in quella lettera indirizzata al Presidente della Repubblica. La voce di Nicolò Amato è più arrabbiata oggi di allora. Oggi che ha capito perché, 20 anni fa, all'improvviso fu rimosso dalla guida del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, dopo 11 anni e proprio quando la mafia aveva spostato dalla Sicilia al continente la sua sfida col terrore. La mia testa fu il prezzo della trattativa, urla ora, con sdegno e quasi incredulità, questo magistrato che per anni ha rappresentato la Procura di Roma in processi come il sequestro Moro o l'attentato al Papa e che poi, per più di un decennio, ha avuto il difficile compito di coordinare le carceri italiane negli anni drammatici, prima del terrorismo, poi delle stragi mafiose. Ma il 4 giugno del 1993 fu rimosso, all'improvviso, senza una spiegazione, che oggi, invece, 20 anni dopo, Amato trova in una successione di fatti: una lettera della mafia, un'inversione di rotta sulla gestione dei penitenziari e un patto occulto, ancora tutto da chiarire, nel dietro le quinte di quei giorni del dolore e della notte della ragione, titolo delle sue ricostruzioni per i caratteri dell'Armando Editore. A ciascuno il suo vuole dedicare ancora un'altra puntata a quella fase drammatica della Repubblica, perché le inchieste la stanno riscrivendo ancora oggi e perché riteniamo utile alla memoria storica condivisa così confusa e così nebulosa quantomeno proporre una pluralità di testimonianze dei protagonisti. E uno fu sicuramente Nicolò Amato, capo del DAP, dicevamo, fino al 93 e prima vittima sacrificale di quella stagione, ha detto anche ai magistrati di Palermo che lo hanno sentito nell'inchiesta sulla trattativa, proprio perché può ricostruire, come fa ora con noi, tutti i passaggi sulle decisioni intorno al carcere, a partire dall'inizio della sfida mafiosa allo Stato con le bombe di Capaci e Via D'Amelio. La nostra preoccupazione come Dipartimento Penitenziario è stata immediatamente, d'accordo col Ministro del Tempo, che era Claudio Martelli, quello di dare una risposta quanto più possibile dura ed efficace nei confronti di una criminalità mafiosa che aveva osato l'inosabile, cioè delle stragi che erano francamente impensabili, inimmaginabili. Abbiamo reagito con durezza attraverso il 41 bis, che era il regime del carcere duro, riaprendo le carceri di massima sicurezza di Asinara e di Pianosa. Ci furono le risposte subito dopo le stragi della 92, il carcere duro nella notte della strage di Via D'Amelio, soprattutto quello firmato sul cofano delle macchine, come ricorda spesso l'ex guardasigilli Martelli. Ma poi ci furono anche, e su questo è anche un tema particolarmente sensibile perché è l'oggetto anche delle inchieste tuttora aperte sulla cosiddetta presunta trattativa tra Stato e mafia, ci furono le bombe sul continente, quelle del 93, ma di tutto questo all'interno dell'amministrazione penitenziaria chiaramente se ne aveva consapevolezza, cioè dopo la nostra risposta dura c'è stato un periodo in cui la criminalità mafiosa è stata, come dire, abbastanza tranquilla. Siamo arrivati fino al 14 maggio del 1993 e da luglio del 92 non era sostanzialmente accaduto nessun episodio stragistico. Noi pensavamo con soddisfazione che la nostra risposta dura era servita efficacemente a contrastare la criminalità mafiosa. La mia destituzione, vede, è arrivata all'improvviso il 4 di giugno. Io mi chiesi allora, e ho continuato a chiedermi successivamente, perché d'improvviso, senza alcun preavviso, senza alcuna avvertenza, senza che mi si dicesse nulla, il Consiglio dei Ministri per la mattina del 4 giugno decise di sostituirmi. Le date appunto a cui lei faceva riferimento sono dei passaggi cruciali. Il 14 maggio del 93 è la data dell'attentato di Via Fauro a Roma. Il giornalista Maurizio Costanzo. Per fortuna nessuno è morto. Esatto, che però quell'attentato segnò l'inizio del delle cosiddette stragi sul continente. Poi, pochi giorni dopo, il 4 giugno del 93, lei fu improvvisamente rimosso dopo 11 anni alla guida del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Scusi, dopo 20 giorni dalla strage di Via Fauro. In base anche alle ricostruzioni che ha fatto, la sua idea sulla sua rimozione in quel giugno del 93, così pochi giorni dopo il fallito attentato a Costanzo, la porta a dire che lei perché fu rimosso? Io fui rimosso perché ho saputo dopo che nel febbraio del 1993 la mafia, forma anonima, aveva indirizzato una lettera violenta all'allora Presidente della Repubblica Scalfaro, in cui si lamentava della durezza delle condizioni carcerarie per i detenuti di mafia e si chiedeva espressamente in questa lettera l'allontanamento del dittatore Amato e dei suoi scherani, perché io venivo visto in questa lettera come il rappresentante, il simbolo, il propugnatore di questa risposta carceraria dura alla mafia. Io questa lettera non l'ho mai conosciuta, se non pochi mesi fa questa lettera mi fu nascosta, ma spiega la mia destituzione, perché la mafia scrive al Presidente allora della Repubblica di allontanarmi dalla direzione del Dipartimento. Pochi giorni dopo la Presidenza della Repubblica convoca il capo dei cappellani carcerari, Monsignor Curioni, persona illustre, ma persona che già al tempo di Paolo VI aveva gestito per conto dell'allora pontefice la liberazione di Aldo Moro, parlando con dei detenuti terroristi politici in carcere, e viene comunicato a questo monsignore che io dovevo andare via dal DAP. Viene suggerito al ministro della giustizia del tempo, Conso, il nome del mio successore, nella persona di Adalberto Capriotti e di un vice direttore generale che si chiamava Francesco Di Maggio. Certo. Da di fatto che io il 4 giugno vengo mandato via e a giugno comincia, attraverso i documenti del DAP, dei miei successori, il capovolgimento della politica penitenziaria. Dalla durezza del regime carcerario del 41 bis si passa ad una notevole riduzione di questo tipo di regime carcerario, al punto che in pochi mesi io avevo lasciato 1350 detenuti di mafia in 41 bis, si sono ridotti a poco più di 400. Quindi l'ammorbidimento della condizione carceraria chiesta dalla mafia è stata ottenuta attraverso un cedimento. Il meccanismo è semplice: c'è stata una pressione illecita, ricattatoria della mafia, e a causa di questa pressione io sono stato mandato via e il regime carcerario si è notevolmente ammorbidito. La sua rimozione è un cedimento dello Stato alle richieste della mafia. La faccio sulla base, certo, dei documenti e delle successioni cronologiche, la lettera che mi è stata nascosta, e ciò che è seguito alla lettera è il fatto che dopo 11 anni nessuno mi ha detto perché io dovessi andare via. Il silenzio che ha coperto la mia destituzione è il silenzio che copre un atto di vergogna, che copre una macchia delle nostre istituzioni. E chiaramente, vede, le stragi che sono avvenute poco dopo hanno servito ad esercitare una ulteriore pressione sui rappresentanti del Ministero, del Dipartimento Penitenziario e del Ministro, per ottenere quell'ammorbidimento delle condizioni che con me sapevano che non avrebbero mai ottenuto, se è vero che mi chiamavano il dittatore Amato. Le lettere dei parenti dei boss in carcere, l'uscita dal 41 bis di centinaia di mafiosi. Un filo lega le bombe che esplodevano sul continente a quanto avveniva all'interno dell'amministrazione penitenziaria. E da qui ripartiamo nella seconda parte di A Ciascuno il Suo, da quelle stanze del DAP. E lo facciamo con l'uomo che guidava le carceri allora e che oggi denuncia: la mia testa è stato il prezzo pagato ai boss. E evitare ulteriori stragi. È una situazione delicata. Non è opportuno acuire le tensioni nella risposta alla criminalità. Con questi flash delle comunicazioni ufficiali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, torniamo indietro al 1993, ai mesi in cui la mafia, dalla Sicilia, aveva portato sul continente la sua sfida a colpi di tritolo. Dopo la riapertura delle carceri speciali, dopo i trasferimenti in blocco dei mafiosi, dopo i decreti di 41 bis estesi a centinaia di boss, ci fu un cambio di rotta nella gestione degli istituti penitenziari? Ci fu un ammorbidimento per mandare un messaggio ai corleonesi che avevano presentato il loro papello? Questo è il cuore delle inchieste sulla trattativa Stato-mafia, l'ipotesi di uno scambio tra un carcere meno duro e la fine delle stragi. E questa è anche la convinzione di Nicolò Amato, per 11 anni alla guida proprio del DAP e rimosso poche ore dopo il primo attentato sul continente. Perché la mia testa era il prezzo della trattativa, denuncia ora con una rabbia che ancora brucia. In un'audizione alla Commissione parlamentare antimafia, il ministro della giustizia del tempo, Giovanni Conso, giustificando la revoca massiccia dei decreti 41 bis, ebbe a dichiarare alla Commissione antimafia che lui l'aveva fatto ovviamente al di fuori di qualunque schema di trattativa, ma nel tentativo, sono parole testuali del ministro della giustizia, nel tentativo di evitare ulteriori stragi. Dopo la sua destituzione, il cambiamento di rotta all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avviene negli stessi mesi in cui ci fu Via dei Georgofili a Firenze il 27 maggio con 5 morti, esatto. San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro a Roma il 28 luglio, Via Palestro a Milano il 27 luglio e poi ancora il fallito attentato allo Stadio Olimpico di Roma del 23 gennaio del 94 e ora quest'ultimo anche arresto voluto dalla Procura di Firenze conferma ancora una volta, dicendo che c'era lo stesso fornitore, diciamo, di esplosivo, conferma la unicità, diciamo, di lettura di questi stessi attentati. A lei che cosa viene da dire? La politica penitenziaria è cambiata immediatamente a giugno. Io ho una serie di appunti firmati dai miei successori in cui si annuncia questo radicale mutamento della politica penitenziaria e si comincia a lasciar decadere una serie di decreti 41 bis. Le stragi di giugno e di novembre rappresentano una ulteriore pressione e a novembre del 1993 ci sono alcuni decreti, iniziative del ministro di revoca massiccia di decreti 41 bis, quindi c'è una consecutio temporum che è eloquente di per sé. La concessione verso una interruzione appunto delle stragi di mafia, esatto. Questo si lega anche alla famosa lettera che i familiari dei boss inviarono, esatto, appunto al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e non solo, perché guardando l'indirizzario, diciamo, dei destinatari di quella lettera in cui i familiari dei boss detenuti nel carcere duro si lamentavano delle condizioni, si trova un po' l'indirizzario di quelli che sarebbero stati i futuri destinatari di questi attentato. È un'osservazione giustissima questa sua, molto acuta e giustissima. Da Costanzo, cioè, appunto al Papa, quindi all'attentato a San Giovanni in Laterano. Il Vescovo di Firenze, dottor, e quindi Via dei Georgofili. Addirittura. Ecco, professor Amato, ma tra gli atti però ce n'è anche un altro che lei in particolar modo su cui ha posto l'attenzione e che lei stesso ha definito agghiacciante e che è un appunto in cui il DAP chiede una serie di revoche del 41 bis, giusto? Io ho notato che in un appunto del 29 luglio siamo a 48 ore di distanza dalla strage di Via Palestro e dall'attentato consumato nelle chiese di Roma. Il DAP, mentre propone ulteriori revoche del 41 bis, parla di una situazione delicata nella quale non è opportuno acuire ulteriormente le tensioni nella risposta alla criminalità organizzata. Quindi un appunto che sembra in qualche modo invitare ad attenuare ancora una volta la situazione, il regime carcerario dei boss mafiosi, giusto? Per una questione di opportunità. Questo appunto che 48 ore dopo due stragi di questa gravità parla di una delicata situazione, delicata è un termine emblematico, e propone ulteriormente revoche del 41 bis e si preoccupa ulteriormente di non accentuare le tensioni nella risposta troppo dura alla criminalità organizzata, mi sembra che c'è da rimanere sconcertati. Però pochi giorni dopo, il 6 marzo del 93, in un altro suo appunto, lei ricostruisce il fatto che anche l'allora ministro dell'interno Mancino aveva suggerito la sospensione per i detenuti proprio degli istituti napoletani. Nell'appunto del 6 marzo, per un dovere di lealtà verso il ministro al cui servizio stavo, cioè il ministro della giustizia, ho informato che nella seduta del Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza, tenuto il 12 di febbraio, cioè 20 giorni prima, il capo della polizia, il prefetto Parisi, aveva espresso delle perplessità sulla eccessiva durezza del regime 41 bis. Io naturalmente ho registrato questa dichiarazione del prefetto Parisi, ma allora non immaginavo, non sapevo che potesse avere un significato diverso da quella che mi sembrava una legittima preoccupazione per un acuirsi delle tensioni intorno al carcere. Ma io ricordai che c'erano state delle pressioni del Ministero dell'Interno e in particolare del prefetto di Napoli per la revoca di quel 41 bis che dopo l'omicidio del sovrintendente Campanella nel febbraio del 93 io ho fatto applicare dal ministro Martelli al carcere di Secondigliano e di Poggio Reale. L'ex ministro Martelli in qualche modo la accusa, dice che lei quando nel luglio del 92 si trattò di individuare i mafiosi da trasferire al 41 bis, parole di Martelli, Amato sparì tanto che dovetti firmare io quei provvedimenti. Una settimana dopo mandò una lettera per chiedere che 5.000 detenuti fossero trasferiti al carcere duro. Io ho avuto modo di parlare con Martelli, lui si è reso conto che le affermazioni che aveva fatto non corrispondevano a verità. Lui ha dichiarato più volte che aveva fatto delle affermazioni perché messo fuori strada da informazioni inesatte fornitegli dai suoi collaboratori, perché io gli ho messo davanti agli occhi i documenti dai quali risulta che tutti i decreti 41 bis, tutti, sono stati siglati da me personalmente e che tutti i decreti di trasferimento sono stati firmati da me e dai miei uffici. Lui ha firmato personalmente il trasferimento di un gruppo di detenuti del carcere Lucerdone perché dopo la morte di Borsellino mi ha telefonato e mi ha detto: vorrei dare un segnale politico. E mi ha detto: mi puoi preparare un decreto di trasferimento di un gruppo di detenuti del carcere di Palermo? E così io gliel'ho preparato e lui l'ha firmato. Aveva tanta fiducia nella mia gestione che mi ha rilasciato una delega per cui io gli ho fatto firmare 532 decreti 41 bis e su sua delega io ne ho firmati 647. Ma le dirò di più, che i 5.000 detenuti a cui lei ha fatto riferimento sono alcuni appunti che io gli avevo proposto nell'estate del 92 per dirgli: guarda ministro, che se vogliamo davvero isolare la criminalità mafiosa non dobbiamo soltanto isolare i capi, ma dobbiamo estendere la separazione a tutto l'ambiente dei detenuti mafiosi attraverso i quali ovviamente si propaga il passaggio dei messaggi e dei segnali criminali. Da tutto questo emerge che in qualche modo la sua rimozione da quell'ufficio così importante può aver favorito la trattativa successiva tra Stato e mafia. La mia testa è stato il prezzo del ricatto mafioso che è stato espresso in quella lettera indirizzata al Presidente della Repubblica. Prima la lettera e poi le bombe. Hanno scritto, hanno chiesto e hanno ottenuto. resta il pensiero sui ricordi riemersi 20 anni dopo, le amnesie istituzionali le hanno chiamate PM. Ma io direi non amnesia, assenze, perché sono successi fatti su cui nessuno si è interrogato. Io non potevo trovare le risposte che ho trovato anni dopo, ma forse qualcuno poteva farlo. Per riascoltare le puntate di A Ciascuno il Suo, il sito è radio24.it nella sezione podcast. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce. Su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.